avanti. Avanti. Fare ai bambini. Avanti, chi c'è? Avanti. Chi sei? Ciao Mario, Carlo dalla 291 direzione Alghero. Carlo, buonasera. Non so se ci siamo già sentiti, ma sento segnale zero, è una modulazione attiva comunque. Anche solo qua in parlamobile, non so che cosa stai sentendo, vai. Sì, sono in macchina e quindi niente, volevo provare un'antenna, infatti stavo prima facendo delle prove e non so come esco. Allora, stai fermo così, io mi sento bene, ma di questo, però la radio mi dice. Ho capito, perché magari sono anche in movimento, non so se poi mi senti ancora. Tu mi arrivi bene, radio 5 e il segnale, io ho le tacchette qua e me ne accende 4. Ci sei ancora Mario? Mi senti adesso Mario? Forse perché avevo i punti, qua sono proprio all'inizio della quattro corsie dove c'è quella serie di punti in cemento armato. No, questo è invece con i colpi. Quei 4-5 gradini che hanno fluisciuto fuori nel piazzale, dai. Ti ho capito, ho capito. Andiamo bene, andiamo bene. Dove sei fra? Come ti arrivo bene? Il segnale non lo vedo, solo la radio è perfetta. Una telefonata. Qui sto parlando un po' da lontano, vai. Non è vero, tu la radio no, non la vedi. K. No, stanno sempre con la smazzette. Il 140 va bene, che l'altra c'è un fruscio di QRM allucinante, l'altra antenna, ma questa invece è molto silenziosa. Comunque la radio è perfetta, quindi sicuramente il segnale è buono, eh. Vabbè, tu sei quasi 9 o 9, buono, non lo vedo, vieni avanti. 1, 2, 3, prova. 9, sì, 9. Ma sei dentro a Sassari? No, sto salendo la campagna, adesso sono fermo al passaggio a livello. Santiago 9 ti arrivano, quindi già va bene. Dai, per essere un'antenna così attaccata dietro, diciamo, dietro il cofano, sì, non penso, meglio di così non posso andare, qua. Volevo provare a mettere un'antenna più lunga, più performante, più da 2 metri, dai. Puoi mettere la PLC 1000, boh. Ce ne sono di antenne buone per la macchina. Ne ha una cosa, la stavo prendendo l'altro giorno, ho chiamato, invece l'aveva già promessa. Stava dando la Sirio a 2001, che sono 2 metri di antenna, costata 30 euro, tutta completa, nuova, mai installata. Adesso ne ha una cosa, come si chiama, quello di Porta Torres, Eugenio, e non dava 20, gli ho detto solo l'antenna, perché lui c'ha solo l'antenna, gli manca il supporto e il cavo, gli manca tutto. Oh, non me l'ha data! Non so se magari serve a lui per il camper, boh. Sì, ma prende la nuova, la Sirio 2001, vanno bene con le antenne, ottimo per la truppa. Sì, no, ma costa una sessantina di euro, diciamo, 55, boh. Ma peccato, dai, l'occasione l'ho persa, perché era nuova. No, non penso che vada bene perché è troppo lunga, per il camper è troppo lunga. O se vuole fare il cambio, gli ne ho una da 1,60, devo fare anche il cambio, se va bene. Se io provo con quella da 2 metri, sempre che vada bene, perché non è detto che vada bene con questo mio attacco, dovrebbe essere uguale. Sì, se hai quello con la... come si chiama? Tipo quella farfalla grande, dai, col coso grande. Sì, c'è una chiavetta L, dai, che sembra una chiavetta L. Sì, già va bene anche quella lì, allora. Va bene, va bene. Quel tipo di antenne lì c'hanno tutti quel mozzo, capito? Se poi ce la devi lasciare fissa, io gli avrei messo un bulloncino, così non te la fotto. No, la tolgo sempre, quando arrivo la stacco sempre, no, non la lasciano. Meglio lontano dagli occhi, lontano dal cuore, come si dice. Sì, già va bene. Ottimo per la truffa. Dov'è la campagna? Me l'avevi detto? Dove stai salendo? San Giorgio, mi sta arrivando. San Giorgio, adesso sono qua delle punti, dai. 9 pieno, sì, 9,95, buon segnale. Sto usando solo l'apparato, Dai, siamo con qualcosina in più, questo qua, penso che sarà 10-12 watt, credo, minimo. Quindi eri vicino a me. Scusa, e dove vedi tu? Beh, io sono vicino a San Giorgio. Non sei tutta un'altra parte, tu, però ho sbagliato zona l'altro giorno, Può darsi. Ciao Claudio, a bagno sì. No, sono uscito anche fuori a fare una scelta, ti dico è tutto sotto controllo, va bene, acqua ne ha fatto tanto, acqua ne ha fatto tanto, infatti stavo controllando i pozzetti, tutti a posto, la pompa tira, quindi no, non ci sono problemi. Meglio così, perché c'è... qua ogni tanto manca fa la luce, anche poco fa, quindi, ma speriamo bene, dai. Franco, quindi eri vicino qua in zona? Io sto salendo da Marchetto, dai, sto salendo verso Sassari, da Marchetto. Ma prima se eri a San Giorgio eri qua, perché ho sentito anche che sei passato al passaggio a livello. Ma forse tu di San Giorgio l'altro, quello di Alghero. Ah, dall'altra parte, quindi, no, perché c'è anche un San Giorgio qua. Vabbè, ce ne sono tanti, San Giorgi e San Giovanni, sono tanti. Sì, intanto ti saluto, Gianfra. L'altro giorno ero da quelle parti, però non c'era nessuno in aria, diciamo, on air. Però le ho viste, guarda che sono sceso anche avanti ieri, no, ieri ero lì da quelle parti, ho fatto da Molatà scendendo verso il chilometro 6-7, dai. Più o meno da Malafà andando verso Alghero, un chilometro e mezzo. Ah sì, avrei visto facendo il curvone le antennine, c'era un pochino di visibilità. E allora Claudio, che mi dici a razza di tempo, un po' caldo, un po' freddo, un po' pioggia, un po' vino, di tutto. Ah, io sono uscito fuori poco fa, però diciamo che la temperatura c'è più bassa dentro, è un'altra cosa. Però l'acqua, pioggia tutto andare, ma tutto andare veramente, minchia. Anche così non puoi fare un tubo, è quello che ti secca. A parte ogni tanto ti manca la luce. Comunque vabbè, è così. Quindi stai rientrando fra a casa? Sì, sì, sto rientrando, ho fatto visita ai vecchietti, poverini, dai, un po' di compagnia. Ho fatto il pieno di gasolio, almeno per un po' sono al calduccio anche loro. E poi, come diceva Claudio, ho messo un corrimano in una scala che hanno per scendere giù in giardino, che è meglio avere un punto d'appoggio sempre, che ormai sono grandetti, sono bei giovanotti, dai. Tutto lì. Sì, le antenne le ho viste, un bel parco antenne, complimenti. Ce n'è un pochino, dai. Niente di particolare, ordinaria amministrazione. Anche io dovevo dovuta mettere la ringhiera, infatti ne devo piazzare un'altra, perché quando sono andato a chiedere qua a Sassari sembrava che mi dovessero costruire chissà che cosa, roba di 1600 euro, ho detto cosa fate? Per una ringhiera neanche, quanto sa, 5.000 neanche. Sono stimati, l'ho presa da Brico in acciaio inox, anzi una da Amazon, una da Brico. Da Brico ho preso quella a muro, la ringhiera, cioè la ringhiera si chiama il passamano, non ho speso più di 120 euro. Quella che ho preso da Amazon con 300 euro me ne sono uscito. Quindi figurati che prezzi ci hanno qua. Aspetta, ci ha mandato dal paese uno che mette la tua strada, questo imbecille, guarda. Sì, bisogna stare attenti, c'è un sacco di gente fatta. Santoso, si è infilato in mezzo, io sono sulla corsia di destra, lui da sinistra, si è infilato tra me e quella che era ferma per girare a Santoso, va. Avendo la macchina vecchia l'avevi disintegrato, ma purtroppo ci tengo alle macchine. E poi ti fai male magari, ed è un casino per colpa di questi pezzi di puntini. Allora, tu rintanato sempre, no? Oggi ti viene male prendere i cinghiali? No, io non sono mai intanato, mi sono andato nella trattanza e mi sono messo a fare il muratore, non ce n'è problema, io sto sempre facendo. Non problem, anche domani quelle cose che ho fatto, ma le vernicio tutte, per me può stare anche tutto il giorno piovendo, io già ne ho da fare, anche all'interno, non all'interno della casa, ma Franco già lo sa, nell'altra casetta che c'è a fianco. Mi sono messo a fare un po' di cosette, mi sono messo a fare anche perché ho collegato un'altra lavatrice per lavare la roba del cane. Che mi ha dato il mio vicino, che mi si era cambiata, quindi sto facendo i collegamenti, piano piano, sempre da fare. L'ha copiata questa data, questo è il 140, è questo? Sì, questo è il piccolino, con l'MC50 però, non con l'MC60, però questo è un MC50 che è stato fatto il circuito di preamplificazione come l'MC60, quindi un 50 più 6. No, proprio una potenza. Guardate, è prepotente come radio. È bella, me l'hanno detto tutti, molto bella. Va bene, e poi anche come radio, questa è nuova, era la mia, mi è rientrata così senza sapere niente, ma l'ho lasciata per cambiare la batteria a tampone, poi quando l'ho chiamato per venire a prendere, sto pensando di venderla, ho capito, vieni a prenderti i soldi allora che me la tengo io, va. Ottimo affare, quando ci stai anche dimmelo. Sarà molto difficile, queste... perché ne ho avute tantissime, le ho sempre date, poi alla fin fine conviene tenerla una, perché non è una radio che crea problemi, capite? Non è una radio che crea problemi, non ti lascia mai a piedi, sono poche le fesserie che ti può dare un 140, no che non l'hai scacciavizzato, toccato, ma questa era nuova nuova, l'avevo presa da un radioamatore, non aveva manco decimali, li ho messi io. Cambio, cambio, caro Gianfranco. Anch'io, io ero fino a poco fa in mezzo all'acqua, sto cercare di regolare un'antenna, poi si è messo a piovere, poi ha smesso, sono uscito fuori, poi ha di nuovo ricominciato, per carità. No, non è giornata a fare niente, si mette a fare fuori. C'ho il prato da raggiare, c'ho un sacco di cose da fare, da pulire, ma non fa. Aspettiamo un tempo bello. Se poi chiaramente c'è una mattinata anche nuvoloso che non piove, è della donna raggiata, se non puoi troppo alta. Ci hanno fatto poco incazzare quello è entrato col furgone, cazzo non c'ero io. Mia moglie ha fatto entrare col furgone a scaricare materiale, cazzo mi ha calpestato tutto il prato, che ha fatto le strisce delle gomme, la bagaccia di gatto ha fatto. Ma cosa ha sgommato sopra? No, ma mi ha baciato tutta l'erba, adesso è una rottura di balle, capito? È una rottura di balle, poi proprio nell'ingresso, fra i vite dove c'è, quell'ingresso ce n'è molto di più avanti l'avevo messa dopo, è un po' più bassa, no, è entrato, la retromarcia. Guarda tu che infatti mi sono incazzato da morire, non dovete far entrare nessuno con i mezzi, fuori dalle balle, prendono la carriola, il carrello, si arrangiano, se vogliono scaricare, se non vogliono scaricare che ce lo portino indietro il materiale, non me ne affutti più più nulla. Iniziamo a ma anche io la mettevo dentro perché il prato non ce n'era. Sto quasi per arrivare. Cosa l'acqua? No, io sto quasi per arrivare. No, vedo che c'è un bel po' di vento, si sta saltando un bel vento qua. Mi è andato maestrale, ma che ci sollevi però. Almeno fa un po' di pulizia. Non mi sa che siamo alle 10 allora, che dobbiamo maestrare. Avanti Gianfra. Anzi, vi chiedo 5 minuti che devo dire una cosa l'aria. Fra, se sei già arrivato, ci sentiamo dopo, ok? Riprendi Gianfra un secondo. Sì. E in che zona sei adesso, Fra? Adesso sono proprio fermo al semaforo di Corso Trinità. Un po' ti sei abbassato il segnale, tu mi senti bene? Sì, cioè ce l'ho davanti. Io ce l'ho tutta Sassari in coso di visuale. Vedo anche le luci lampeggianti dalla via dove era Claudia, no? Che hanno quegli affari che sta bene. Non ho capito perché nelle strisce pedonali li mettono in quel modo, appuntati agli occhi, così almeno non vedi i pedoni quando attraversano. Allora, invece di migliorare le cose le peggiorano, per carità. Ma stai uscendo sempre con bassa potenza, vero? Tu esci sempre con pochi watt? Sì, sono anche al di sotto della potenza, diciamo, legale, sempre di meno. Tanto non serve, capito? In città. E poi comunque l'antenna vedo che è tranquilla nonostante l'acqua che ha preso da stamane presto. No, va bene, a volte ti perdo, ma a volte perché passo in certi negozi dove ci sono un sacco di luci, sicuramente roba LED, mi sale molto il cuore e a volte perdo qualcosa, però ormai mi sto lontano, sono già arrivato quasi alla parchetta. Magari quelle sono, sai che cosa, le luminarie, quelle lì di questo periodo appena le attaccano iniziano a fare un QRM micidiale, perché attaccano, senti queste scariche, zzzz. Qua ti ascolto meglio, no, proprio sale il QRM a 1000, proprio, porca miseria, a volte no, non sento nulla, non vedo lo smitter, ma sarà penso 8-9 di QRM. Ci sarà qualche cella di quelle telefoniche in zona, quando prendono acqua, se c'è qualche isolamento un po' così inizia a dare fastidio. Qua si arriva meglio sicuramente da qua, vero? A voglia. Non vedo segnale, però è molto alto. No, mi accorgo, anche la tua radio è cambiata parecchio, adesso è proprio pulitissima, non sento più nessun disturbo. Ho spento il motore, vedo il frequenzimetro che sta impazzendo, perché sicuramente sono sottoalimentato, perché sto usando l'accendisigari, capito? La presa accendisigari. Ah, ho capito, ma la potenza è sempre quella, no? È 4 watt, è un apparecchietto così. No, penso che sia qualcosa in più, questo non esce con almeno un 12 watt minimo, Ah, ho capito, quindi di quelli un po' più grandetti, dai. Non si potrebbe anche portare, credo. Anzi, non credo, sicuro. L'antenna sarà, immagino, di 2 metri. No, è da uno, credo che sia 1,60, dai, da Sirio. Non è la più grande, infatti volevo provare con una più grande, più performante. Perché, anche perché la mia parte della ruota di scorta di dietro, diciamo, io ho la ruota dietro attaccata al portellone e quindi scorge su neanche 1 metro forse dalla capotta. Insomma, sono sempre messo male con le antenne io. Ho capito. E vabbè, dai, già comunque arrivi bene, non è che cambia qualcosa. Purtroppo qua queste frequenze, le antenne sono sempre lunghe quelle auricolari. Eh no, sul tetto non la posso mettere, se lo toccherei dappertutto, perché già la macchina è, credo che sia su 1,80 di macchina, forse anche di più. Se mi metto l'antenna guai, non entro neanche nei parcheggi della piazzetta. Beh, di lì io raschio sempre, infatti non c'entro più. Io ho un'antenna piccola, proprio piccola, saranno 35-40 centimetri, ma senti, No, questa già è in acciaio, questa la puoi fare, come si dice, a nodo morto, come si suol dire. Sì, anche la mia è in acciaio, però quando tocca la mia non si può piegare, perché così. No, questa piega proprio, la puoi fare anche un nodo, puoi fare anche un nodo. Infatti la tengo dentro la macchina, nel cofano si piega come... prende la sagoma del cofano, vai. Ok, vediamo se Claudio è rientrato. Claudio, ma che... Oggi tu ti paura, no, di entrare? Volevo mantenere a Giulio, detto che stavo passando lì alle punte, invece non lo becco mai. Sarà in giro a prendersi un po' di aria. No, Giulio, non esce. Anzi, sta cercando di uscire il meno possibile, così ha detto l'altro giorno. Lui adesso si stava a fare anche la terza dose, non so se l'abbia già fatta lui. Anche io devo controllare, ma me ne dimentico sempre. A me, mi è scaduta ieri, 5 mesi ho fatto ieri. Visto che dice che sta durando 5 mesi, bisogna prenotarsi di nuovo, dai. Ma ho capito, dato che ci hanno sfidati, perché non ti chiamano loro, che facciamo prima così? Tocca stare lì a fare queste prenotazioni. Poi l'hanno messo in un posto dove mi sa che è anche difficile posteggiare. E già andava meglio a Fredanietta. Quello sicuro. Lì via Marghinotti cosa c'è? C'è quella piazzetta lì di fronte al Cuore Immacolato, ma non ci sta tanta gente. Poi non so se all'interno di quella struttura ci siano altri parcheggi, ma non credo. Là era l'ideale. Bene o male trovavi un buco, o lì, o da Vestis. Qualcosa c'era sempre. Qua è un problema, Sì, infatti è una cosa che non ho mai capita. Sembra che a Sassari appena c'è qualche cosa di nuovo subito fanno di tutto per peggiorarla, perché hanno paura di fare le cose bene, no? E quindi la peggiorano. Ma ce ne abbiamo di zone con ampi posteggi per fare le cose, no? Servono le zone più strane. Guarda, uno di due mi ha detto che stanno di nuovo facendo lì alla Promocamera, ha detto ma sei sicuro? Perché io sapevo che lì fosse chiusa. E lui mi sembrava sicuro, sarà. Però fatto sta che i miei colleghi sono tutti prenotati qua in via Marghinotti. Anche a me sembra strano, perché io ci passo, anche stamane sono passato, non c'era, era tutto sarrato. Dicono che devono fare la fiera, non so che cosa, E lì fanno sempre la fiera ogni anno, non so in quale periodo, non lo so. so che è inverno, sì. La fiera di Sassari. Ma vuol dire che quegli spazi di stelle servono per la fiera. Infatti. Ma mi sa che anche questo è un Natale sottotono. Chi lo sa. Stavo parlando che al massimo spenderemo sui 100-150 euro troccate per le feste. Mi sembra un po' pochino, ma comunque vuol dire che c'è crisi, eh? Te ne passa la voglia, capito? Poi pur di non stare in mezzo alla calca, fai gli acquisti online, risparmi anche qualcosa. A me mi fanno ridere tipo certi un euro media, guarda. Ha un prezzo fantastico, 650 euro. Cioè, ma anche chi è va a comprarsi un telefono di 650 euro? L'hanno visto in che condizioni sono le persone. Sì, sono finiti quei tempi. Prima sì, qualcosa sì, l'ho preso anch'io, la verità, qualche bel telefono l'ho preso. Però adesso ho cercato e cerco tuttora di trovare un bel compromesso, dai. Non più di 200-300 euro. Sì, ma poi se ti serve per fare quelle cose che fanno tutti, diciamo, le cose normali, non c'è bisogno di buttare via, quello è proprio buttare via soldi, perché poi quei telefoni appena esce il nuovo non valgono niente, quindi conviene uno normale che c'ha lo stesso tutto, tra l'altro, e non le manca niente. Io ne ho preso uno che c'ha praticamente tutto, dal GPS all'NFC alla batteria super, diciamo di durata. Vabbè, vediamo se qualcuno può entrare sul 10. Niente, tutto tace. Sì, QRM a zero proprio. Sì, no, io lo cambio proprio perché vuol dire che non va più, no? La batteria è andata e c'è solo qualche problema, se no finché va, finché gira, diciamo, il sistema lo lascia andare. Quando vedono che non ce la fa più, inizia a essere un cingolato, piano piano, che non va più, allora mi nervosisco e lo cambio. Ma figurati, questo che sto usando adesso è un SST, siamo già qualche annetto, e sta ancora andando. Però la batteria mi sta un po' mollando. Mi ho preso un power bank, abbastanza anche compatto, quindi a volte quando si scarica cavetto direttamente dentro il marsupio, non lo sto caricando neanche se ne accorge la gente. Ho una carica portatile dappertutto, penso che sia da 10.000 mAh, quindi me lo ricarica 4 volte minimo. Sì, anche io l'ho preso con la fettura, infatti ce l'ho qua da qualche parte, ed è non so da quanto sia la batteria, so che pesa almeno ce l'ho davanti agli occhi. Ho preso anche questo da Amazon Power Bank ed è esattamente 2 ampere rotto, dai, di eroga. Anzi no, a 5 volt 1 ampere. Oh, vabbè, c'ha tante uscite questo, c'ha 3 uscite per tutti i tipi di USB. Comunque dovrebbe essere intorno ai 3 ampere, dai. 3 ampere è grosso. Questo è mio, ripeto, è 10 mAh, cos'è? 1 ampere sarà così, cosa coincide? Un ampere sono 1000 mAh. Se fossero 2 ampere sarebbe 2000. Questo è, c'è anche il pannello solare, ma penso che non serva a niente per caricare una batteria del genere. Poi in caso di necessità lo puoi sempre tirare in testa a qualcuno, come arma in proprio. Sì, non è pesantissimo, io ripeto, questo è un 10.000, non è che sia grossi, ne ho visto di più enormi, più ingombranti. Questo è abbastanza compatto, sembra più o meno un hard disk esterno, vai, da qualche tera, vai, da 3 tera. Però va bene, disimpegna parecchio. Penso che carichi anche un computer, una batteria di un computer, di un portatile, credo. Invece il telefono ti fa 4 o 5 ricariche tranquillamente. No, va bene, quando sei al mare, ti vuoi guardare, non so, partite, Formula 1, ormai questi programmi assorbono un sacco di energia. Con quello sei tranquillo, vai. Ti puoi stare tutto il giorno attaccato. Vai ancora, Gianfranco. Allora, non può entrare nessuno? Che siamo soli qua sul 10, prima che manchi la doccia. No, anche perché io devo mollare adesso, dove c'è la macchina. Magari riprendo da casa, dai. E quindi mi dici se arrivo meglio. Vedi un po' se vedi il segnale, vediamo la differenza. Aspetta, ritorna. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Ok, ricordati, questo non è molto generoso, anzi, è veramente tirchio. È un 9 pieno, la radio è perfetta, senza nessun disturbo o nulla. Ricordati S9. Dai, d'accordo. Beh, a tra poco se coincide. Salutami anche Claudio, se rientra. Non so se posso rientrare. Grazie ancora, un abbraccio, riprendi già. Ok, alle prossime. Se io sono qua ad ascoltare, tanto come al solito sto facendo alcune cose. Beh, ecco tutto, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Riprendo l'oppo, ciao Fra, riprendo l'oppo, fai pure quello che stai facendo Gianfra. Roberto gli è arrivata la patente. E capa, dai. Sono contento per lui, gli faremo gli auguri quando lo sentiremo. Riprendi Gianfra. Ciao Cla. Ok, beh, adesso però c'è tutta l'attività dal coso che è da Roma, della licenza, quello è il primo step. No, gli hanno comunicato che le danno, sicuramente domani ci avranno in attivo tutto il right, ti ho detto, è facilissimo. Erano un po' incaginati con i sistemi, ma abbiamo un altro messaggio, quindi tutto a posto. Penso che domani stesso abbiano in attivo, è arrivata oggi. Va bene, dai, riprendo fra un po', Gianfra, ci sentiamo subito. Qui se c'è un nominativo domani facciamo già due prove in bocca a febbraio. Ok? Ok, peccato che le abbiamo dato un nominativo brutto, IS0 trullala. No, ma a quanto pare mi pare che siano con le U, IS0, U, vediamo un po'. Cosa le danno, ma non è attivo quale l'altro, non c'è problema, è importante averlo. Sarà IS0. Se quello mi ricorda il lupo che storia. Per carità, prendiamo piatta sopella, dai, ci sentiamo dopo. E domani ce le danno IS0 loop, Lima Unifor Papa. E vabbè, ce ne sono di peggio, ho ricordato adesso che anche quella vecchia era brutto. Beh, comunque, dai, l'importante è avercela, e soprattutto l'importante è mettere la stazione, cioè mettere le antenne proprio giusto per comunicare, tanto lì non c'è bisogno neanche di fare grandi cose. Guarda, ho sentito proprio l'altro giorno in 40 metri, avevo sentito, poi ieri ho sentito l'altro. Allora, in provincia di Roma era un Stadia Zero, Unifor Sierra Bravo, USB, proprio ieri, in 40 metri di nuovo, ho sentito uno dalla provincia di Milano, IS0 Lima Sierra Bravo. Che bel casino, quando è decametri che lo sento che chiama, dico, ma noi non possiamo passare in USB, qua siamo in LSB. No, poi l'altro cattivere continuava a chiamarlo, riprendi un pazzo, insomma si rende conto che non l'aveva fatto, chiama il collega un pazzo. Poi alla fine è entrato uno, ciao UPZ carissimo, ah ecco perché lo chiama UPAT, UPZ. E invece quello lì che dicevi era uovo doppio, lo ricordi? Uovo doppio, io non lo ricordo, due chiamate vi facevate, vabbè, Rete il Fiero, belli, a me non mi attiva altro belli, proprio 0 URT, primo, io c'è 0 DFB, c'è con. Belli non mi attivi, no. Non ci sono problemi, vabbè, aspettiamo Roberto cosa ci dice, dai. È lontano, già fra 5 minuti, devo farmi due chiacchiere con mia figlia, domani io mi devo organizzare, mi serve la macchina, e quindi mi devo mettere d'accordo perché colleghi, domani mattina non vuole svegliarla, siccome non è di apertura, domani va verso le 10, ci vuole riposare, perciò me devo fare le chiavi e tutte le cose adesso, dai, ci sentiamo tra un attimo, ok? Tanto sono qua in ascolto come sempre. Mi finisco questa cosa e poi vediamo un po'. E intanto adesso arriva Roberto sicuramente, che lui chiude alle 6:30, quindi fra un po' entra in radio, là. Sono qua comunque, 5 minuti, 5-10 minuti e poi riprendo, là. A dopo. Ok. C'è qualcuno? Sì, Roberto. Sono io e c'è anche Claudio che si è allontanato un attimo. Ciao Gaffa, ho sentito un altro, forse era Claudio, insieme avete parlato. Chi è l'altro? Avanti. Già ci sono, dai. Oh, io non ho sentito nessuno, ho accennato adesso, non c'era nessuno, ho sentito solo te. Ah già, sei un bel rimbombante, già. Chi è entrato? Già nel doppio room, però era tutto confusionario, si sentiva un bel di voce. Ma io infatti sentivo tutto wow. Adesso si sente. Sì, va meglio adesso, molto meglio. Perché era sicuramente era tutto quanto. Auguri Roberto. È arrivata oggi. Sì, lo so. Grazie, adesso c'è tutto il resto. È che è arrivata troppo tardi, mi è arrivata verso mezzogiorno e cosa, non ho fatto in tempo, perché dice non mi attivo trovando in giornata. Online dovrebbe essere. Devi spedire quindi tutto la fotocopia della patente, la richiesta, la dichiarazione, poi al carabollo naturalmente, il cacchio del carabollo non devono mai mancare, è un documento tuo di riconoscimento, dice lo esaminano in giornata tra la danna, però oggi è venerdì, per cui purtroppo la sera saranno chiusi, adesso se ne parli lunedì se tutto va bene. Sì, va bene, fatto il più, si può anche fare il meno. Io ti sto finendo quello a fare. Ah ecco, te cosa ti devo dire, se no poi me ne dimentico, scusa Gianni un attimino. Quindi ho misurato vari parametri, è proprio il PC che non ce la fa, le USB sono troppo deboli, figurati che le stavo trasferendo dei programmi da una pennina tra l'altro ad alta velocità, ma guarda, roba di mezz'ora per scaricarlo, una cosa che ti viene la disperazione. Col mio l'ho messa a tutto, l'ha fatto per una roba piccola, non era credo neanche un giga, roba di 500 mega, quindi è proprio la macchina che non ce la fa. L'ho provata su un altro piccolino lo stesso che c'ho e hanno funzionato tutti i programmi, quindi la macchina è troppo messa male. Comunque da usare funzionante, perlomeno con quei programmi che hai già visto, va bene. Riprendi Gianni. Dai, rimango in ascolto, dai, vi ascolto, sto facendo loro. Ok Gianni. Gianni, gli ho mandato ancora il messaggio a quel tipo, quello di Sassari, questo certo Michele, non mi ha risposto, c'è scritto risponde entro 10 minuti normalmente, è passata una giornata, 24 ore, e non mi ha risposto. Perché prendevo quello lì, tanto era un prezzo ridicolo, era come prestazione. Mi metto 4 volte quello che ho di quello lì. Vabbè, se di quella gente poi che cosa ti sta dando, io non ho assolutamente fiducia sui locali, preferisco una ditta che rivende rigenerati, non è tranquillo almeno, perché c'è la garanzia, se c'è qualche problema te lo sostituiscono a spese loro pure. Ce n'è una in Sicilia dove ho comprato questo molto in gamba e niente, almeno sei tranquillo. Ora ci ho acceso il tuo, sto facendo gli ultimi ritocchini e dunque te lo scambio. carico, magari domani sarà aperto, sì. Io domani mattina sono aperto, se ci vogliamo incontrare amici dopo e quando. Io in ufficio normalmente il sabato sono sino alle 9:30-10, tanto siamo chiusi, però che faccio lavori di ufficio, riordina qualcosa, dai, se siamo le ultime fesserie. Ma se ti capita di passare a mezz'ora, oppure mi dici dove ci troviamo e facciamo il tutto. Comincia, mi sa in ufficio a rotolare qualche spicciolo che dobbiamo fare la pizza aperta adesso. Sento Marco, Fabrizio e compagni. Vabbè, non ti preoccupare. va bene. Io ho detto via Gianfranco. Infatti è arrivata troppo tardi, se non ci avete avuto la stasera, beh. Tanto una mattina scendo in macchina, spero di trovare a Nicola così. Apro su e porto via quelle antenne che mi servono, così te le passo. O perlomeno la metto in macchina, beh, se non sarà domani sarà lunedì. Va bene, io sono qua comunque. Non so se è entrato qualcuno, riprendi Gianfranco. Sì, c'è Gianni, ma è in ascolto perché è impegnato. Vabbè, mi dovete fare una cortesia, te la posso chiedere? Assolutamente che sì. Ascolta, io domani ti riporto quell'affare, perché ieri notte l'ho collaudata, non capendo perché c'era solo il QRM, l'ho provata su un altro dispositivo piccolino, su un computerino piccolo che uso per integrare quello che c'è nella televisione. Ci ho messo un'antennina un portatile da 0 fino a 4 GHz, sento tutte le radio libere possibili e immaginabili, tutte con lo stesso segnale. Quindi prendo quella scatoletta, te la do e guarda, se c'è una presa la puoi mettere anche nella presa. Regalala a qualcuno perché non è roba che può rimanere qua. Addirittura, così c'è stato il traglio. Ma quella che mi hai portato a vedere? Sì, identica alla tua. Non è roba. Non è... Se ci attacco la terna esterna, quella piglia fuoco. Come minimo. Tu figurati che con l'altra che ho preso da Amazon, di quella casa canadese, che tra l'altro costa più o meno lo stesso prezzo, tutte queste cose non succedono, sento le stazioni bene, c'è una riduzione d'immagine molto minore, e quindi riesci a usarla, diciamo, tranquillamente, però non c'è grandi pretese, può fare ascolto. E tra l'altro funzionano tutti i parametri di regolazione, quindi se c'è troppo guadagno alla base, guarda la manetta, è una cosa che non si crede, proprio un hack, puntini, non la voglio proprio vedere, guarda, neanche la chiavetta la più, boh. Fate una cosa, se riusciamo a organizzarci domani mattina, tu e Claudio, se venite in contemporanea prendiamo a berci qualcosa, dai. Non so, se ce la faccio io, perché a Ilaria serve la macchina alle 10, capito, che deve andare al lavoro. Domani apre il suo collega e pure gli va lì, quindi io posso uscire proprio veloce e poi devo rientrare a casa. E poi vieni anche alle 8:30, non penso che vi siamo un'ora e mezza in giro. Dai, adesso vediamo, non ti prometto niente, vediamo un pochino, dai. Comunque presto esco presto, perché devo prendere le sigarette, che non ne ho più a casa, un caffettino sicuramente, e poi devo prendere la colazione a mia moglie e a mia figlia, dai. Va bene, dai, non c'è problema. Riprendi Gianfra un attimo che mi assento che c'è roba a fuoco, non è cinghiale comunque. E lascia di stare almeno i gatti, Cla. Sì, i gatti lascio perché ci mangiano i topolini in campagna. Dai, che c'ho un po' di bollito stasera che fa freddo. Ci sentiamo tra un secondo, riprendi e fai girare. Ma mi sa che lì ci sta passando qualche gatto. Vabbè, poi niente, questo qua lo puoi usare così, poi magari lo... Se trovi qualcosa te lo scarichi. Capito? Funziona per i lavoretti normali, ma siccome quelle chiavette, proprio quelle chiavette hanno un drive che non è molto per la quale, è molto suscettibile. quindi l'ha pigliata in do, non ce la fa. Ah, poi ci ho messo anche un filmato di quelli che faccio con l'ho messo su una pennina alta velocità, di quelli che quando esco in bici con quelle microcamere sportive, non era neanche un 4K, era una risoluzione inferiore in HD, in full HD, poi tutta scatti, vabbè. Vabbè, dai. E poi te mi faccia funzionare quelle cose che abbiamo fatto funzionare l'altro giorno con la radio. Ieri ho fatto una prova col 2000 in banda laterale, canale 15, tanto con l'altro, col 44, sono entrato su un del menu delle funzioni di DSP per eliminare il disturbo, tanto una pulizia di segnale in banda laterale spaventoso. Mi ascoltavano, erano in Spagna, loro stavano uscendo con 350 watt, mi ascoltavano Santiago 5-7, io li ascoltavo Santiago 9, con l'altro col 44, solo rumore senti. Te l'ho detto, quell'apparecchio è stato fatto a nuovo, cioè non c'era niente di particolare, c'era il difetto che hanno tutti i TS2000, no? Perché parecchie serie di quegli apparati sono stati fatti con i fili di ceramici del, non so se erano Murata o cos'erano. Comunque dopo qualche anno, no, di uso eccetera eccetera, perdevano di sensibilità, ed era la solita cavolata che capita alla Kenwood, alla Icon, agli AES, no? Perché hanno una fornitura magari di roba che non è proprio d'alta qualità, allora la mettono in produzione, poi si ritrovano gli apparati che vanno male, i clienti che si lamentano. L'avevo mandato su da, credo, Sonesong, come si chiama, quella che c'era l'assistenza da Kenwood, e me l'ha detto, sì, ne abbiamo tanti, lo facciamo a tutti perché è proprio un difetto della fabbrica. Ci hanno messo quelle buone, e poi ovviamente quando fanno quei lavori controllano tutto l'apparecchio, e me l'avevano rimandato, me l'ha costata una sparata tra l'altro, giusto perché sono lavori un po' difficili, ma mi hanno detto, guardi, l'apparato è meglio del nuovo, stia tranquillo che questo problema non ci sarà più, è diventato sensibilissimo, ha recuperato tutto. Sì, no, ma me ne sono accorto, perché io lo stavo usando normale, senza niente, confrontato con 44, un po' meglio, ma non notavo questa differenza. Poi sono entrato su queste funzioni noise reduction, ce ne ha due, più c'è questo BC, non so cosa sia, comunque è una specie di SP dovrebbe, ma ti pulisce completamente il QRM, te la tengo in un modo allucinante, non me lo immaginavo, ma proprio c'era il segnale in banda laterale che quello là neanche lo sentiva, questo me l'ha pulito, usciva una meraviglia. Adesso voglio provare in M, come va questa roba? Guarda, sono parecchi fatti, soprattutto per la banda laterale, in M, anzi dobbiamo essere contenti che ancora ce la mettano, giusto perché ci sono le broadcasting da ascoltare, se no probabilmente l'avrebbero già tolta. Eppure ti dico, facendo un raffronto a quello che è già un signor apparecchio, che è stato riabilitato, perché prima c'erano i puristi, sai, quindi l'HF o l'HF, UHF, UHF, con altri apparati, insomma tutte queste menate qua. E invece poi si è dimostrato un apparato che anche longevo tra l'altro, perché quando gli altri uscivano di produzione quello era sempre lì, anche rispetto agli altri Kenwood, proprio perché è un apparato completo. A me mi ha dato fastidio il fatto che c'ha troppi tasti, veramente sono esagerati, sono piccoli e sono così. Però ti posso anche dire che messo a confronto quelli nuovi, con i nuovi, intendo con tecnologia SDR, anche quello, per quanto il DSP sia buono, piglia colpi. L'SDR ti fa veramente paura per le possibilità che ti dà, sia di filtraggio dal punto di vista, è come avere 20 filtri meccanici, e poi fa un po' di tutto, capito? però quello lì è sempre un signor apparecchio, un po' grande, però a chi piace. Poi un domani si mette anche la scheda di 1002 e ci aveva apparato completo. Ma guarda, mettere, non lo so se su quella serie si possa mettere, non ho la più pallida idea, ma poi lo lascerei così com'è, 1002, che senso hanno? Se ti capita un'occasione te lo prendi, ma è una banda in cui ci saresti tu e so, a meno che non parli con te stesso. No, per il discorso dei satelliti e cose del genere, adesso si sta sviluppando tutto questo sistema, sapete, non adesso, quando sarà, se la passione aumenta. Non per essere pessimista, Roberto, in genere diminuisce. Diminuisce perché insomma ci sono tanti fattori. A me non è diminuita per il semplice motivo che io mi dedico soprattutto al riascolto e quindi è un'attività che non ha mai fine. Invece quelle lì, sai, quando stai ad ascoltare un QSO con passaggi lunghi, eccetera, eccetera, quelle cose lì uno a volte si stanca, ecco, perché è anche difficile entrare. Poi magari ne entrano altri quattro, quindi a quando fai girare le ruote voi. E poi ripeto, è una questione di gusti, c'è chi piace il DX, c'è chi piace l'ascolto, c'è chi piace fare queste vocali, c'è chi piace anche sperimentare, ce ne sono tantissimi. Quindi lì dipende da quello che vuoi fare, quello devi decidere tu. Sì, assolutamente, tutto passo piano piano si fa. Io quando ho iniziato la vista ho fatto vedere qualche foto della mia attrazione, sempre tre cagatine, poi piano piano l'ho fatta migliorare. E sono abbastanza attento, cerco anche di farmi consigliare, dire mi prendi questo, fai quello, leggo tanto, mi documento, per cui qualche farinatura me la sono fatta, però c'è sempre qualcosa da imparare. Vediamo se il porcetto di Claudio è arrosto o lo deve ancora cucinare. Sta togliendo il pelo e la coda, non l'ha capito. Una cosa che si mangia a buccia e tutto quello lì. Ma non dal gatto ne ha un po' di pelo, non puoi neanche usciare. No, il gatto no, devi pulirlo il pelo, dai. Devi farlo tipo agnello bello, pulito. E poi di norma non è molto d'accordo a fare quella fine, quindi se lo vedi graffiato sai già cosa è successo. Vuol dire che gli è rimasto qualche segno del felino. Ok, vediamo se nel frattempo qualcuno su 10 vuole entrare, attenzione 10, nulla. Tutto a tacce, anzi che qua siamo fortunati, d'altra parte proprio tace tutto. Comunque se vuoi un consiglio io te lo do gratuitamente e spassionatamente. Stai sempre in un limite intermedio, ecco, non ti dare ai megatralicci, a quelle cose lì, perché con queste situazioni che ci sono sarebbero solo seccature e rogne. Insomma, una stazione, come si suol dire, che ti accontenti, dai, senza cose troppo costose che magari poi ti deludono, perché la qualità non è proprio come era una volta, te l'ho già detto con le antenne Diamo, che erano le migliori in assoluto, e poi invece allo stato attuale sono quello che sono. Sì, naturalmente poi la qualità anche sta penalizzandosi, nel senso sta peggiorando. No, diciamo, hai detto bene, no, megatralicci ma neanche a parlare, non ne voglio problemi di, a parte che sono sempre preoccupato per i terremoti, per i temporali. Io quando vedo temporale ieri sentivo un po' di rumori, ho detto qua stai attento, poi se metti un'altra antenna, quella che dovrò mettere per le VLU, la possibilità di agganciare il coso, il fulmine, aumenta, voglio stare sempre un po' più tranquillo, perché ho visto di radioamatori con impianti megagalattici che ci hanno perso un sacco di soldi, perché a parte il 20 eccetera eccetera, ma temporali hanno creato grossi danni. Comunque Gianfranco, non lo potete provare a 550, a 140, 540, 50 con Roberto come secondo operatore, con il mio nominativo, apro io, giusto per vedere se questa antenna che c'ha funziona, lo senti? frequenza adesso? 145 e 450 in diretta, però invece quell'antenna che ha funziona, perché secondo lui non funziona, ma io ce l'ho uguale, apro io e poi ti rispondo lui come secondo operatore, IS0DFB secondo operatore Roberto, si può fare? Non è vero, credo di sì, secondo operatore si è sempre fatto, però non lo so con certezza e non voglio dire fesserie a riguardo. Guarda, se vuoi io posso fare anche di più, lo posso ascoltare col gommino, io sono certo per le misurazioni che ho fatto che anche col gommino lo sento. Tanto lui cosa c'ha? Una X, cos'era? Una X200, una cosa del genere? No, una X50 c'ha, una X50 sotto la matta là. Con esattezza non si potrebbe, perché bisogna farlo da qua, da casa mia, lui a fianco a me, io apro e lui parla, e poi quando è finito il corsia io devo chiuderlo, ok, come secondo operatore, no, una prova, visto che c'ha già la patente, non penso ci siano dei problemi, giusto così per vedere se lo senti, ecco. Se vuoi farla roba e sei autorizzato, apro io a 145 e 450 e poi tu rispondi a Gianfranco come IS0DFB secondo operatore Roberto. Se vuoi farla la prova così sei sicuro che quell'antenna funziona o non funziona, perché io non l'ho mai sentita quell'antenna. Hai detto 145 e 450? Sì, diretta, in diretta, senza shift, senza toni, senza niente, diretta. Se vuoi ti schiaccio la portante e chiami a Gianfranco IS0DFB secondo operatore Roberto. Mi senti sì o no? Ma basta fare un fischio, niente di più. Ma che fischiare? A fischiare si fischiano i cani. Non ho capito, non è che stai facendo niente di male, ti sto autorizzando io, anche ripeto, se non è esattamente così, ma è una prova, perché tu devi essere a fianco a me, però ti ripeto, vai a 145 e 450 e chiama a Gianfranco IS0DFB secondo operatore Roberto, vediamo se ti sente. Io sono in ascolto col gommino. Aspetta che poi devo postare la radio, tra parentesi, che non l'ho mai toccata. Un attimino, datemi un minuto. Diretta, metti 100, non dispiacerebbe se c'è scritto 145 e 450. Da te in analogico non lo so se ci arrivo, Claudio, io ci provo, ti faccio una chiamata. Prova, che ti faccio sentire, prova. Ma tu dove credi che sia io sottoterra? Arrivi 5-9 col gommino. Non mi sono sentito, perché non sono sincronizzato. Devi sentirti, vai, parla. Arrivi 5-9. Come arriva a fondo scala? Ti arriva a fondo scala, allora non funziona questa antenna, secondo te. Non funziona, lui col gommino sta parlando. Chiama Gianfranco, ti ho detto, prova 145 e 450. Dile Gianfranco, mi senti? Chiamalo. Aspetta un attimino, però come faccio qua a commutare questo cazzo di radio? Lo devi commutare, perché che ce l'hai nella subfrequenza le VHF. Cazzo, ti ho detto di mettertele nel principale le VHF. Nel sub tieni, nel sub VFO tieni le VHF. Ho già impostato, allora da una parte c'è la banda diciamo HF, dall'altra nella sub c'è 145 450, però per entrare in chiamata dove cavolo devo entrare? Devi spostare nel VFO centrale.